pioggia cade la neve, bagnano e nutrono la terra, la mia parola tornerà a me, frutto molto frutto mi darà. Metti le scarpe sulla strada, apri i tuoi occhi verso il mondo, tendi la mano al tuo fratello, apri il tuo cuore alla speranza, scende la pioggia, cade la neve, bagnano e nutrono la terra, la mia parola tornerà a me, frutto molto frutto mi darà. Gente che incontri sulla strada, cuori feriti, lacrime nel buio, porte chiuse, muri di egoismo, gente che ha smarrito il suo cammino. Scende la pioggia, cade la neve, bagnano e nutrono la terra, la mia parola tornerà a me, frutto molto frutto mi darà. Solo io posso darti un cuore nuovo, spirito saldo, forte e buono. Aprite l'orecchio alla parola, scoprite con gioia la bellezza. Scende la pioggia, cade la neve, bagnano e nutrono la terra, la mia parola tornerà a me, frutto molto frutto mi darà.